intanto voi che siete venuti ci sono tante facce che sono venute a queste serate e insomma ringrazio chi ha avuto la tenacia di fare tutto questo percorso insieme a noi. Io ci tenevo in modo particolare a ringraziare Giacomo prima di tutto e poi tutto il collettivo di Arvultura per avermi dato la possibilità di mettere in piedi insieme a loro questa cosa, in particolare il programma, è una cosa a cui tengo molto, sono molto contento di come sono andate le cose, dello scambio che c'è stato, dei riscontri che abbiamo ricevuto, insomma spero, almeno insomma, l'impressione che con le serate che abbiamo costruito insomma qualcosa sia passato, qualcosa sia rimasto e che insomma ci sarà, si spera, la possibilità, ecco, di rivederci, di portare avanti questi discorsi. Per l'ultima serata di questo festival, e qui facciamo la presentazione teatrale, abbiamo chiamato Valentina Bazzarin, che adesso facciamo salire sul palco, non abbiamo l'accompagnamento musicale, mi sa, però meglio, ecco, meglio così. Valentina porta questo intervento che si intitola Progettare con i dati il diritto digitale alla città e come dicevo ieri, come raccontavo ieri, è un po' la conclusione ideale del percorso che abbiamo cominciato giovedì parlando di attenzione, di economia dell'attenzione, e abbiamo proseguito ieri presentando e interpretando i temi di How to Run Your City Like Amazon, che è il libro di cui ci ha parlato ieri Federico Neirotti, per farci vedere una critica all'idea di Smart City, ma oggi vogliamo chiudere non soltanto con un pensiero, con una prospettiva critica, ma cercare di aprire a prospettive di trasformazione che non siano soltanto appunto prospettive di resistenza, che sono importanti, ma prospettive di trasformazione, di riprogettazione, di riappropriamento di quelli che sono gli spazi, i nostri spazi, i nostri tempi e i nostri diritti. Ecco perché ho voluto portare qui Valentina, che è una ricercatrice indipendente che questi temi li tratta e li ha trattati per molto tempo. Insomma, ieri Valentina mi ha assicurato che quando fa questo tipo di interventi poi dopo chiamano la forza pubblica, quindi preparatevi perché evidentemente ci sarà, insomma, io mi aspetto qualcosa che scaldi gli animi, che ci carichi particolarmente. Ho sentito, abbiamo sentito il soundcheck del set musicale che ci sarà dopo, due parole in più le dico più avanti, però mi sembrava la colonna perfetta poi per fare gli scontri, per cui va benissimo così. E niente, adesso la smetto di dire quelle scempiaggini che la stanchezza di 3 giorni mi fa dire, lascio la parola a Valentina che dirà sicuramente cose più sensate delle mie. Grazie ancora a tutti e a tutti voi per essere qui e spero che vi godiate questa serata. Grazie, io cercherò invece di non farvi stare seduti a lungo perché io ho un grossissimo problema a stare seduta quando parlo e quindi capisco la vostra posizione lì tra il pubblico, e soprattutto non esitate a fare domande mentre parlo, nel senso che purtroppo ho fatto la ricercatrice in ambito accademico per molti anni e quindi oltre a fare ricerca, che è un momento dialogico, ho dovuto anche insegnare nella forma data dall'Accademia, quindi io di fronte a centinaia di studenti che mi guardavano tra l'annoiato e lo sconvolto, e ho sempre cercato di strutturare anche le lezioni per quanto possibile. Strutturare le lezioni mi ha sempre permesso in realtà di farmi delle domande, di capire anche meglio quello che stavo spiegando e quello su cui stavo facendo ricerca. Io effettivamente, come è stato detto prima in introduzione, non conosco molto il contesto delle piccole città, perché vivo tra Bologna, Palermo e Barcellona. Non vivo più in un piccolo paese da quando ho scelto di scappare dalla provincia di Padova per andare a studiare a Bologna, molti molti anni fa, e quindi quello che racconto è una realtà di una cittadina che vive in una delle poche metropoli italiane, anche se in realtà Bologna, con i suoi 300.000 abitanti nel comune, non è sicuramente come una metropoli come Barcellona, che di abitanti ne ha sicuramente molto di più, però Bologna e Barcellona condividono un'idea di città che si proietta, che ha un orizzonte come quello che definiva ieri Federico Neirotti, un orizzonte da smart city, con le dovute differenze. Andiamo quindi a fare una chiacchierata, spero, ripeto, con voi e con il vostro contributo, su come Bologna e Barcellona particolarmente stanno immaginando di poter presentare e progettare con i dati il diritto digitale alla città. Allora, c'è una piccola premessa da fare. Io lavoro molto sulle domande, cioè so di non sapere e quindi me ne faccio moltissime. Potrei anche cambiare idea mentre parlo su quello che ho scritto nelle slide, soprattutto quando al posto del punto di domanda ho tentato di mettere un punto o addirittura un punto esclamativo in alcuni momenti. Quindi le domande che mi sono posta sono quelle che sono state anche riportate nella presentazione di questo incontro. Chi progetta le nostre città? La politica, i cittadini, il turismo, le imprese, le piattaforme? Chi disegna oggi le trasformazioni urbane e tenta di determinare quelle sociali? Le politiche sono guidate dai dati? Soprattutto sappiamo leggere i dati, sappiamo interpretarli, sono solo gli algoritmi che usano i dati o possiamo imparare anche noi a maneggiare i numeri e i dati, che non sono necessariamente solo numeri? I dati e le informazioni vengono utilizzati solo per giustificare decisioni già prese? Questo penso sia qualcosa che vediamo spesso, cioè vengono presentate delle statistiche in realtà a posteriori per raccontare una decisione politica e giustificarla con i dati. Invece quello a cui potremmo ambire è utilizzare i dati per prendere decisioni migliori, come avviene invece quando si usa un algoritmo, in teoria, per ottimizzare un processo. Quante decisioni vengono prese in base agli algoritmi o direttamente dagli algoritmi nel nostro quotidiano? Voi lo sapete? A me piacerebbe saperlo. Sono operativi degli algoritmi che prendono decisioni in città come Milano, per esempio, e ci sono algoritmi operativi in città come Bologna. In diverse smart city ci sono o delle infrastrutture che stanno già prendendo delle decisioni senza il controllo umano e senza anche la possibilità per l'umano di fare un passo indietro per capire su quali basi sono state prese le decisioni. Un esempio molto banale di decisione presa in base a un algoritmo è il disastro ferroviario dell'altro giorno, nel senso che è mancato il controllo umano e un doppio passaggio è saltato, uno dei due pare, dalle indagini che stanno facendo, uno dei due dei doppi passaggi che servono a controllare che il sistema ferroviario sia chiuso e funzionante, perfettamente funzionante nel suo sistema, e questo passaggio che è saltato era stato disattivato per permettere alle persone di intervenire sul blocco. Quindi quando l'algoritmo prende delle decisioni da sole, non c'è una persona dentro la torretta, nello scambio, che vede che i binari non sono messi nel posto giusto, ci possono essere dei problemi, perché l'algoritmo non sa che su quel treno passeranno delle persone e se lo scambio non funziona si perderanno delle vite. Quindi gli algoritmi, dobbiamo chiedercelo, i dati e gli algoritmi sono neutrali di per sé? No, assolutamente. Vedremo che c'è una matematica che ci racconta, lo vedremo più avanti nella presentazione, che gli algoritmi sono solo delle opinioni scritte in codice. Quali spazi e opportunità di agire abbiamo e quali possiamo conquistare attraverso l'hackeraggio civico? Possiamo ambire una città intelligente e femminile, ma soprattutto una città femminista? Ho provato con queste slide e molti molti esempi a rispondere a queste domande. Tra i miei riferimenti teorici, facendo un passo indietro, sono scappata appunto dalla piccola provincia di Padova per andare a studiare a Bologna, perché a Bologna c'era Umberto Eco. Umberto Eco che insegnava in questo corso di scienza della comunicazione, che metteva insieme quello che in quel momento per me era tutto quello che volevo sapere. E metteva insieme la semiotica, metteva insieme la psicologia cognitiva, le neuroscienze cognitive e soprattutto mi permetteva di studiare all'interno di un contesto in cui la città stava cambiando, si stava modificando. Bologna è la sede della prima rete civica in Europa, assieme ad Amsterdam. È stata la prima città che ha messo a disposizione di ogni cittadino la possibilità di accedere a internet attraverso dei computer aperti e disponibili nell'URP. Questo accadeva alla fine degli anni 90 e è stata la prima città che ha permesso non solo di utilizzare l'infrastruttura per andare altrove, quindi con una ricerca su internet, utilizzare la posta elettronica in un computer pubblico, ma soprattutto di accedere al suo sistema di dati e di informazioni interno attraverso l'accesso ad un computer che era collegato alla rete del comune di Bologna e quindi di poter vedere come era strutturato il sistema informativo della città stessa. E perché ha fatto questa scelta a Bologna negli anni 90, fine anni 90? Perché la Bologna della fine degli anni 90 era una Bologna che interrogava esperti di settore come Castells, ma non solo, li invitava in città a discutere, a parlare e a raccontare che città si immaginavano loro. Quindi non degli informatici, ma dei sociologi, delle persone che hanno studiato, si sono espresse, hanno raccontato la società dell'informazione prima che divenisse la realtà nella quale viviamo tutti noi. E cosa scrive Castells nel 2004? Ma è molto simile a quello che scriveva raccontando la Silicon Valley e come l'attività della Silicon Valley avrebbe modificato lo spazio urbano negli anni 80 e 90. Scrive nel 2004: la società dell'informazione non deve essere più basata sulla pura informazione, sulla trasmissione della conoscenza. Deve soprattutto comprendere e adottare la logica intrinseca di Internet. E questo appunto lui lo riscrive nel 2004, ma lo immaginava già quando scriveva il primo atto della sua trilogia sulla comunicazione e il potere. E Castells, io l'ho conosciuto personalmente, in realtà durante le proteste del Kenseme a Barcellona, pochi giorni prima dello sgombero di Plaza Catalunya. Eravamo tutti lì per un convegno su McLuhan, su McLuhan Galaxy, quindi le galassie di McLuhan, altro teorico dei media, che viene approfondito e studiato in tutti i corsi di comunicazione del mondo. E Castells a un certo punto ha preso tutti i partecipanti, tutti i ricercatori che presenti alla conferenza e ha detto: che cosa ci facciamo qui dentro? Quello di cui stiamo parlando sta succedendo là fuori. E quindi tutti noi che eravamo a questa conferenza pronti con le nostre presentazioni siamo usciti e siamo andati a vedere come quella che lui immaginava essere la tecnopolitica e la relazione tra società, possibilità di prendere in mano il potere, trasmissione della conoscenza e internet come opportunità per tutti di scambiare informazioni e attraverso questo migliorare l'intelligenza collettiva, veniva messo in atto, diventava parte dello spazio urbano, veniva non solo messo in scena, ma provava a cambiare le dinamiche di controllo dello spazio urbano attraverso la presa della piazza e soprattutto la presa di parola in rete, raccontando e portando fuori l'esempio di quello che stava facendo quella piazza. La protesta del Kenseme non è stata soltanto nelle piazze, è stata nelle piazze reali e virtuali. Ed è stata il primo momento in cui questo non è stato fatto soltanto per il bisogno di avere un livello di testimonianza con la impresa diretta di quello che stava succedendo, ma proprio come possibilità di agire sul doppio livello, sul reale e sul virtuale, per cambiare le dinamiche, le gerarchie di potere. Gli effetti di quello che è successo a Plaza Catalunya si sono visti anni dopo e arriverò a raccontarveli raccontando cosa sta facendo Ada Colau a Barcellona per creare una città femminista. La società dell'informazione genera processi sui quali possiamo incidere. Questo è il grande insegnamento di Castells, che però mi disse anche una cosa che devo condividere assolutamente con voi in quell'occasione. Alla mia domanda, ma tutto questo può succedere ovunque? Mi rispose, no, in Italia per esempio non può succedere perché siete troppo vecchi e ci sono troppe poche donne. E io ho detto, ok, benissimo, e quindi lui disse, ti conviene venire a vivere qui a Barcellona. Vabbè, non è successo, o meglio, non è successo del tutto, perché ancora ci credo. La società dell'informazione ha il potere e la capacità di generare la conoscenza necessaria per sostenere i processi informativi. Per fare questo deve abbandonare però la vecchia struttura verticale gerarchica a beneficio di una nuova logica reticolare, perché la facoltà di cambiare le decisioni sociali si basa oggi essenzialmente sul networking. Quando io dico networking, ovviamente a tutti voi vengono in mente prima di tutto le possibilità di networking virtuale, quindi i social media fondamentalmente, ma Castells in realtà non dice solo questo, quando parla di networking e di reti parla dell'uomo in rete, e per questo le sculture mi sembrano particolarmente adatte, l'uomo reticolare, l'uomo che si incontra e si incontra in tutti gli spazi, in tutti i momenti possibili di dialogo e di confronto per far crescere collettivamente la conoscenza. Cosa però succede quando perdiamo questo livello del discorso? Torniamo a Barcellona, o meglio andiamo a Barcellona. Andiamo a Barcellona oggi. Due giorni fa il Mobile World Congress, che voi sapete essere, immagino, la più grande fiera tecnologica del momento, è stato cancellato nell'edizione del 2020. Forse posticipato, ma non ci crede nessuno, quindi cancellato, perché i più grossi player del digitale sono tutti asiatici e non era il caso di rinchiudere 2.000-3.000 persone dentro uno spazio fieristico in questo momento di panico rispetto all'ex coronavirus, che ora ha cambiato nome, ma non conosco il nuovo nome. E quindi è stato cancellato il World Mobile Congress. Cosa comporta la cancellazione di un evento come il World Mobile Congress? Comporta moltissimo per la città di Barcellona, che è la sede sia del World Mobile Congress sia della Smart City Exhibition a livello internazionale, quindi il doppio livello device che ciascuno di noi ha in mano e alla quale accede al mondo, accede al World Wide Web, e Smart City, quindi ecosistema urbano e intelligente che si muove e gestisce attraverso i dati. Scusate se faccio questo grandissimo salto, però ripercorrere tutta la storia della tecnologia, voglio che questo intervento duri meno di un'ora, è un po' complicato. E quindi il World Mobile Congress è stato cancellato. È stato cancellato, ma fino all'ultimo, e in realtà hanno sperato di poterlo organizzare. E hanno sperato di poterlo organizzare perché è all'interno di questi spazi feristici, in realtà, in cui le persone fisicamente si incontrano e la società della connessione in realtà decide di buona parte delle politiche che ci riguardano. E buona parte delle politiche che ci riguardano non vengono più decise nelle sedi istituzionali, vengono decise in audizioni fondamentalmente private dei player tecnologici con i decisori politici e all'interno di queste fiere, alle quali è molto costoso e difficile accedere, tra l'altro se sei un cittadino che vuole informarsi, ed è molto però utile avere delle antenne per capire come si stanno muovendo gli scenari mondiali, che non riguardano soltanto le politiche tecnologiche, riguardano anche ovviamente tutte le politiche economiche, ma anche il rispetto dei nostri diritti civili. E infatti una ricercatrice dell'Università Oberta della Catalogna scrive, ok, va bene, è stato cancellato il World Mobile Congress e questo determina uno spazio di opportunità grandissimo per noi, perché il fatto che quel tempo, quello spazio non venga occupato dai soliti discorsi sulla leadership, sui working groups che parlano soltanto di, ufficialmente soltanto di tecnologia, sulla storia della tecnologia, sulle appartenenze a gruppi, famiglie tecnologiche, a mobile e tecnologia, ci permette di ragionare su come tutto questo sta cambiando il nostro modo di vivere la tecnologia. Il fatto che non venga occupato da questo discorso, che è dominante, determinante in tutto febbraio per la città di Barcellona, in realtà come possibilità di occupare lo spazio di parola ci dà una grandissima opportunità. E quindi scrive questo articolo, e quindi da un momento che veniva dato anche dagli stessi attivisti nella città di Barcellona per scontato, in realtà adesso sta nascendo la possibilità di continuare il discorso che gli stessi attivisti hanno già iniziato a inserire, a innestare all'interno dell'altro grande discorso sulla tecnologia che avviene a Barcellona, che è quello della Smart City Exhibition. Perché parlo di diritto digitale alla città? Immagino che più o meno tutti abbiate sentito parlare del lavoro di Henri Lefebvre, forse mi sbaglio. Però Henri Lefebvre parlava di diritto alla città, sicuramente non di diritto digitale alla città, ma il diritto digitale alla città nell'idea di Purcell è in realtà l'evoluzione del diritto alla città raccontato da Lefebvre ai giorni nostri, quando i diritti civili e i diritti digitali convivono nello stesso spazio. L'altro momento di cui vi verrò a parlare è di come questo diritto digitale alla città si innesta nello spazio della Smart City World Congress, della Smart City Exhibition, e che spazio occupa nel design di questa manifestazione. Vi vorrei raccontare di Manifestmo, che probabilmente qualcuno di voi conosce, che è un'altra iniziativa accademica che però poi ha dei riflessi all'interno dello spazio urbano, che non nasce in questo caso in Catalogna, in Europa, ma nasce negli Stati Uniti, dalla teoria del black feminism, tra l'altro. E vorrei parlarvi di discriminazione algoritmica, di come il data feminism sta cercando di superare questo livello di discriminazione sempre nello spazio urbano. E poi vorrei parlarvi di un gruppo per l'advocacy che si occupa di urbanismo femminista. Allora, tornando indietro, il diritto digitale alla città. Anni fa, quando ho deciso di smettere di lavorare per l'Università di Bologna, perché sono scappata di nuovo, fondamentalmente, ho iniziato a collaborare con Open Polis, che è una fondazione che forse qualcuno di voi conosce, perché fa scraping di dati, quindi prende i dati dai siti istituzionali e li rende visualizzabili, leggibili a chiunque sulla rete. Open Polis ha tradotto due libri dell'Oxford Internet, due pamphlet in realtà dell'Oxford Internet Institute, prodotti sempre dalla MIT Press, pubblicati dalla MIT Press, che è la stessa casa editrice che ha pubblicato il libro che abbiamo presentato ieri, che è stato presentato ieri. E uno di questi, il primo di questi pamphlet si intitolava Il nostro diritto digitale alla città, e da questo ho preso il nome. È disponibile online gratuitamente, scaricabile, potete chiederne una copia, e si pagano solo le spese di spedizione della versione cartacea. Cosa c'è scritto in questo pamphlet? L'evoluzione della teoria di Lefebvre mette insieme oggi diritto e etica dell'informazione, quindi prende dentro all'interno del discorso sul diritto alla città anche quello che Castells individuava come opportunità, anzi dovere, nell'essere proattivi all'interno della società dell'informazione. E cosa dice questo testo? Il diritto all'informazione rappresenta la dichiarazione di chi abita le città per affermare che non permetteremo più che qualcun altro gestisca le nostre informazioni per conto nostro, ma che saremo noi cittadine e cittadini a produrle e a gestirle autonomamente. Quindi, se volessimo semplificare e banalizzare all'estremo quello che è stato detto finora, In realtà il nuovo diritto alla città, quello che include anche l'elemento digitale, è un diritto alla città che ci obbliga non soltanto a riprenderci la strada, ma a riprenderci anche, a riprendere anche in mano le vie della comunicazione, gli strumenti di comunicazione. Il medium, e non solo il medium, ovviamente il medium per poter veicolare dell'altro contenuto, ma anche per rendere accessibile a chiunque il medium stesso. All'interno invece della Smart City Exhibition, come si è riflessa questa nuova idea di un diritto digitale alla città? Attraverso un progetto europeo che ha occupato uno spazio fisico all'interno della Smart City Exhibition, lo spazio centrale. Questo spazio viene chiamato Sharing Cities Action Stand Lab ed è uno spazio che esiste da 2 anni. E attorno dovete immaginarvi questa piazza virtuale della Smart City Exhibition con tutto attorno delle specie di stand in cui le persone scambiano informazioni i provider tecnologici presentano i loro prodotti, e al centro di questo circuito, dove ci sono gli stand degli Emirati Arabi che presentano la loro nuova Jeep con un sistema di sorveglianza e di riconoscimento facciale, Mosca che presenta un bellissimo sistema che a livello biometrico ti stermina la famiglia in Kazakistan, no, non lo fa ancora, però ti riconosce, no, però ti riconosce ed è collegato in realtà al sistema di dati biometrici della Mastercard, per cui in realtà oltre alle informazioni che ha su quello che stai facendo e con chi sei, ha anche informazioni rispetto ai tuoi comportamenti di consumo. Oppure gli stand dei cinesi, delle città cinesi, che ti parlano di come loro esercitano il controllo sociale attraverso la videosorveglianza nelle città. E al centro di questo spazio c'è invece un'arena in cui si parla di diritto digitale alla città e diritti dei cittadini. E quest'anno in quell'arena si parlava soprattutto del tema dei dati, la negoziazione con le piattaforme per l'accesso ai dati, costruire dati comuni e data regulation. Quindi in quello spazio centrale, sia fisicamente sia centrale per la capacità di in qualche modo connettere tutti i temi che venivano trattati dal punto di vista commerciale attorno a questo spazio, invece al diritto di ciascuno di noi di continuare a godere nel nuovo spazio urbano della città intelligente dei diritti civili che diamo anche un po' troppo per scontato di avere ancora, quando invece in molti casi vengono alienati. Il contrasto in questo caso era forte. Quindi la città di Barcellona non solo si è presa le piazze della città, ma si prende ultimamente anche le piazze all'interno delle fiere e dei momenti più espositivi commerciali sulla discussione nella tecnologia. Quindi è andato ad occupare un altro spazio di parola. L'altro elemento è che ogni tema, dai modelli economici, che è molto ovvio il collegamento col tema dei dati al futuro del lavoro, ma anche l'inclusione del genere è stato ricollegato al tema della necessità di negoziazione con le piattaforme in termini di dati. La sostenibilità ecologica è stata ricollegata al tema della necessità di negoziazione in termini di dati. La stessa, appunto, l'economia collaborativa è stata ricollegata alla necessità di una condivisione di dati e dell'accessibilità dei dati. Quindi tutti gli altri temi sono diventati in realtà temi toccati da questo elemento principale, che è appunto ripensare ai dati e alla nostra possibilità di esprimere, di recuperare i canali e gli strumenti digitali, riprendendo il possesso dei nostri dati. E questa è l'altra iniziativa di cui vi volevo parlare, appunto il manifesto, no? Che è questa dichiarazione da una parte di rifiuto e dall'altra di impegno di un gruppo di ricercatrici statunitensi che ha di nuovo detto che questi regimi costruiti attraverso i dati devono essere da una parte rifiutati e dall'altra invece devono diventare il nostro obiettivo politico perché sono il nostro determinano il nostro futuro, determinano il nostro orizzonte futuro. come vi dicevo prima, perché tutto questo? Perché gli algoritmi partono, si alimentano e vivono fondamentalmente di dati, e gli algoritmi sono sempre più presenti nella nostra quotidianità, hanno sempre più spazio di azione nella nostra quotidianità e riducono sempre di più il nostro. Ma gli algoritmi, come scrive Cathy O'Neill in Armi di distruzione matematica, sono appunto opinioni scritte in codice. I big data aumentano le disuguaglianze e minacciano la democrazia, ma minacciano la democrazia non in senso che stanno destrutturando il modello democratico, ma minacciano i diritti civili di ciascun cittadino che pensa ancora di vivere in una democrazia. E quindi partono da noi per distruggere il modello, non lo fanno nelle accademie, lo fanno nella nostra quotidianità. Appunto, perché Barcellona occupa tutti gli spazi di parola? Perché Barcellona, dal primo governo della Colau, in questo governo riesce a farlo con un mandato un po' più limitato perché il successo politico è stato meno evidente, e Barcellona però continua a essere ormai una città femminista. Barcellona è una città femminista nel senso che applica la prospettiva di genere in tutte le politiche municipali. Ed è una città che prende in considerazione la teoria femminista, perché la teoria femminista in realtà permette di avere quegli strumenti teorici e culturali per porsi le domande giuste per rendere accessibile la città a tutte le persone, soprattutto a chi parte svantaggiato. È una città che appunto riconosce che stiamo vivendo in città in cui le persone sono sempre più anziane, per esempio, e quindi buona parte del lavoro quotidiano deve conciliarsi con un lavoro di cura delle persone più fragili. Sono città in cui c'è una grandissima insicurezza rispetto al lavoro, c'è una grandissima discriminazione sul lavoro, ci sono grandi discriminazioni sul lavoro. Sono città in cui la maggior parte degli incidenti avvengono all'interno dello spazio domestico e sono città in cui non sono sicure né le case, in termini proprio di violenza personale, ma non solo, anche proprio di incidenti domestici, ma anche le strade non sono sicure, quindi ci fanno vivere in un tema, se non sei un uomo bianco di 40 anni, vivi con una continua costante paura. Una città femminista invece prova a ribaltare questa idea, perché è una città che protegge, è una città che si ribella alla diversità, quando viene la diversità sessuale di genere diventa discriminazione, è una città che guarda avanti, è una città pioniera, è una città basata appunto che basandosi sul femminismo reinventa ciascuno di noi, e porta ciascuno di noi a chiedere quello spazio come accessibile, come libero per tutti noi. E questo è proprio il manifesto della città di Barcellona, nell'home page della città di Barcellona. Un po' quello che la città di Bologna, quando ha iniziato a intuire la possibilità data dalla tecnologia, voleva essere, ma ha smesso abbondantemente di essere. Cosa faccio ora che sono scappata dall'università? E me ne sono andata via sbattendo anche violentemente la porta. E lavoro come ricercatrice per una ONG catalana che si chiama Digital Fans e che sta costruendo una piattaforma di dati aperti su SICAN per combattere la disinformazione sulla violenza macista a livello di tutta la Spagna. E ovviamente i catalani, se possono dimostrare che Barcellona è meglio del resto della Spagna, lo fanno anche attraverso i dati. E cosa si fa? Perché c'è questa necessità? Perché sapete, il macismo è uno dei temi su cui la sinistra spagnola, la vera sinistra spagnola, non sto parlando dei socialisti, ha sempre combattuto. Ci sono moltissime discriminazioni, c'è una forte componente di popolazione giovane, donna, a differenza che in Italia, è molto attiva, ma che viene fortemente discriminata sia in termini di opportunità di lavoro, in termini di stipendi, un po' come avviene in tutto il mondo, ma soprattutto che quando riesce a fare lo scatto a livello di carriera viene in qualche modo bloccata attraverso sistemi di contenzione violenta della possibilità di inclusione delle donne dentro l'attività di alto livello nella città. È una contenzione che arriva nell'intimità, cambiando anche la legge sull'aborto e le possibilità di abortire in Spagna, ma anche che non tutela le donne vittime di violenza, ancora meno se possibile di quanto non avvenga in Italia. Quindi anche solo raccontare quanta violenza machista o femminicidi avvengono in Spagna è un modo per far capire in realtà con i dati la dimensione del problema, la dimensione del problema nella sua massima espressione, quindi l'omicidio. E cos'altro fa questa ONG? Beh, sta collaborando a livello mondiale per far prendere coscienza all'algoritmo che opera nella città stessa di come vivono le donne nella città. Uno dei grossi problemi che abbiamo in questo momento nelle città, che rendono aperte una parte dei dati demografici, per esempio, ma non solo, anche dei dati statistici su quello che avviene all'interno dello spazio urbano, è che i dati che vengono aperti nella maggior parte dei casi non contengono la distinzione di genere. Quindi sono tutti dati che vedono uomini e donne all'interno dello spazio urbano come se fossero uguali e non invece rilevano la differenza. E quindi a livello di movimento su Open Data tutti si stanno sforzando in realtà per introdurre la dimensione di genere all'interno dei dati, ma in più si sta facendo uno sforzo ulteriore. C'erano prima solo 5 indicatori a livello mondiale per le Nazioni Unite che raccontavano la situazione delle donne all'interno dell'area metropolitana. Adesso questi indicatori stanno diventando 12. Tra questi 12 ce ne sono alcuni che sono tradizionali, come il tasso di donne elette all'interno delle istituzioni, ma ce ne sono alcuni invece che sono inaspettatamente degli indicatori totalmente nuovi, nel senso che non esistono dati per genere, per esempio sull'aspettativa, scusate, sul poverty rate. Dati nazionali, nella maggior parte delle nazioni del mondo, sulla differenza tra la quantità di donne povere e la quantità di uomini poveri all'interno di una nazione non ci sono. E quindi questa ONG catalana sta cercando di avere informazioni rispetto a questo tipo di differenze. Oppure dati sul femminicidio, che è un particolare tipo di omicidio, vorrei dirlo e spiegarlo anche ai signori di Libero, che non vuol dire che è stata uccisa una donna. È stata uccisa una donna perché donna. E quindi in quanto donna. Libero che scrive, no, allora dobbiamo, esatto, ci sono più maschicidi che femminicidi. È esattamente il tipo di comunicazione che attraverso i dati si può decostruire e anche attraverso la corretta definizione degli indicatori. Lo so che sembra un lavoro molto noioso questo di andare a prendere gli indicatori di genere, però vi dico che è effettivamente noioso, però no, vi dico che è assolutamente importantissimo, perché una volta che tu ti confronti con i dati, con le evidenze, dati raccolti bene, evidenze raccolte bene, e sai che non li stai leggendo solo tu, persona, ricercatore che ha una competenza per leggere i dati, ma su quegli stessi dati operano gli algoritmi, ti rendi conto che molte delle decisioni, che appunto non sono decisioni neutrali, né perché l'algoritmo è neutrale, ma anche perché i dati sono neutrali, potrebbero essere prese meglio se i dati, per esempio, contenessero questa dimensione di genere. Perché, per esempio, le strade o le famiglie, le situazioni in cui è più alta la probabilità che avvenga un femminicidio, si possono calcolare attraverso dei dati migliori. Quindi è possibile, per esempio, fare della prevenzione o costruire all'interno dello spazio urbano dei punti di ascolto, di accoglienza, quando nelle zone in cui questo tipo di fenomeno è più probabile. Questo era il claim, si è un po' tagliata la foto, dell'edizione della Smart City Exhibition dello scorso anno. E raccontavano le cities made of dreams, in cui c'era in realtà uno spazio urbano in cui la tecnologia ti aveva permesso di volare da un punto all'altro, di vivere in una specie di grattacielo volante, mongolfieroso, con però anche le macchine che non si capisce che ruolo possano avere all'interno di una cosa sospesa per aria se non macchine volanti, ma è anche con gli alberi che crescono verso il basso. Questa era l'idea della Smart City, con però la sanità e le metropolitane, quindi trasporti e sanità, ben evidenti come gli elementi tecnologici su cui con i dati si può fare la differenza. Ma anche un po' riprendendo la citazione di ieri della città di Amazon, New York come città di Amazon, io mi chiedo, noi cosa vogliamo e su cosa siamo disposti a impegnarci? In una città di Amazon siamo disposti ad accettarla acriticamente, una città da piattaforma, controllata dalla piattaforma, o una città delle Amazzoni, volendo richiamare l'idea di una città femminista? Io ovviamente propendo per la seconda e sono stata bravissima, non ho fatto un intervento chiama Digos questa volta. Grazie. Io qui mi fermo, ma nel senso che vorrei sentire quanto sono stata lontana dalle vostre aspettative dopo questi giorni di chiacchierate, e soprattutto come pensiamo di rilanciare anche nello spazio qui, piccolo, forse periferico, presunto periferico. Io per esempio posso dirvi che oggi passeggiando per Senigallia mi sono resa conto di quante telecamere avete in città, e non so se voi ci avete mai fatto caso di quanto è videosorvegliato il centro storico di questa cittadina. È veramente, secondo me, superiore rispetto alle necessità di una zona di questo tipo. E mi sono chiesta, per esempio, ma voi ci avete mai fatto caso? Vi sta bene? C'è un motivo per cui ci sono così tante telecamere in questa zona? È un riflesso di una politica della sicurezza? È un'attività preventiva quella che viene fatta? Lo chiedo a voi, perché mi ha particolarmente incuriosita questa piccola attività. Oppure sono andata a vedermi il sito di Senigallia per vedere i dati demografici, in realtà anche di Ancona, se i dati demografici sono disponibili, accessibili, e cosa raccontano rispetto alla città delle donne. C'è veramente molto poco. C'è pochissimo e i dati non sono facilmente accessibili. E allora mi chiedo, ok, magari è una piccola idea e può aiutare soltanto a prendere un po' di confidenza con lo strumento dati, però perché non provare a chiedere di avere per esempio dati migliori per iniziare a costruire delle politiche inclusive rispetto alle donne? Chiedere se qui operano degli algoritmi. Qui non penso che ci siano le grandi piattaforme, a parte ho visto Airbnb molto attivo in città, come invece succede a Bologna, dove abbiamo le piattaforme di delivery, che sono quelle di smart mobility, che sono quelle che hanno in mano la maggior parte dei dati. Ma qui per esempio Airbnb, il comune ha fatto una richiesta per avere una restituzione di una parte dei dati che raccolgono rispetto al turismo per migliorare la ricettività delle infrastrutture. Che tipo di turisti arrivano qui attraverso Airbnb e l'offerta culturale, per esempio, risponde alle loro richieste? Queste cose, di questo tema l'amministrazione comunale si è mai occupata? Secondo voi è poco interessante o invece capite come anche nel piccolo si può agire accedendo alle informazioni, all'infrastruttura e a creare l'infrastruttura attraverso la sua unità fondamentale che sono i dati, il passaggio di dati? Queste sono altre domande, per esempio, che mi sono fatta io oggi passeggiando per la vostra città, ma ce ne sono mille altre che come attivisti possiamo mettere in campo e sulle quali possiamo lavorare per trovare delle soluzioni. Grazie. Beh, io immagino, infatti stavo proprio dicendo, immagino che le domande saranno molte, perché l'intervento è molto denso, ci sono tantissimi temi e prima di lasciare il microfono volevo un attimo evidenziare alcune cose che mi sono sembrate interessanti perché sono doppiamente contento dopo averti sentita di aver chiuso con te. Intanto perché ancora una volta ci sono temi che riecheggiano da una serata all'altra. Guardare e scovare le telecamere era uno degli esercizi che F proponeva per riprendersi l'attenzione nel primo dei nostri incontri e quindi è interessante che sia ritornato anche oggi questa idea di guardare i dettagli della nostra città e capire e cercare di metterli a fuoco. Ma in generale ho trovato molto interessanti alcuni passaggi del tuo intervento. Intanto sottolineare il fatto che gli algoritmi non sono neutrali e i dati non sono neutrali e sono prodotti, quindi sono cose che vengono create dalle persone con tutto il loro portato culturale. Credo che sia il primo passo per cominciare a riconoscere che non solo le politiche estrattive delle piattaforme di fatto non sono una forza naturale, ma sono qualcosa che possiamo controllare e dobbiamo rivendicare politicamente un controllo su di loro. Dall'altra parte, mi piace molto come la prospettiva femminista che tu hai cercato e credo anche in maniera molto efficace e condensata di delineare nei vari passaggi, ecco, mi piace molto come attraverso la prospettiva femminista una serie di cose che siamo tendenzialmente portati a guardare in modo negativo, la parte per esempio sulla sorveglianza che spesso ci alloca scenari distopici, beh, qui diventa parte attiva della costruzione dei diritti, perché il punto è questo: come decolonizziamo il linguaggio, se il linguaggio della sicurezza è sempre declinato in modo repressivo, non potremo mai accorgersi di come invece la sicurezza è fondamentale per costruire quella pluralità che di fatto è la base di una città inclusiva, di una società inclusiva. Ecco, sono questi alcuni degli aspetti su cui volevo mettere l'attenzione perché il rovesciamento è importante. Cioè, altrimenti, e l'hanno sottolineato in tanti in questi 3 giorni, nei loro interventi, altrimenti rischiamo di pensare sempre soltanto alla tecnologia come a un male che non possiamo evitare, quando invece deve essere un ausilio, qualcosa che, a cui noi dobbiamo abilitarci a utilizzare, a conoscere, a smontare, a rimontare, a progettare, a riprogettare per fare in modo che serva i nostri interessi come collettività e non gli interessi di singoli, soggetti che sono basati alla massimizzazione di un unico profitto che è quello che produce, estrae, valore da noi e dalle nostre vite. Ecco, questo mi sembrava importante sottolinearlo. Detto questo, avevo promesso di essere breve, quindi chi vuole può intervenire molto volentieri. Allora, io ho fatto un sacco di esami. Funziona? Ah. Sì, bisogna fare Ho fatto un sacco di esami di urbanistica, poi l'ho lasciato stare tanti anni fa e qualche tempo fa ho letto un articolo che parlava della città, di una città, diciamo, disegnata e pensata da maschi. Ok, mi ha acceso una lampadina, però alla fine l'articolo faceva notare che in realtà, ok, come dire, c'erano un po' troppi tratti bui dove poter essere assalite, in un certo senso, no? E mi è sembrato un pochettino povero come analisi per pensare che tutto quanto cioè, che tutto quello che, da un punto di vista proprio di disegno dello spazio pubblico, intendo, e non di altre questioni, cioè proprio come è fatta la città, tutto stia semplicemente nell'accendere più luci o mettere più telecamere, no? Da quel punto di vista lì. E sinceramente io non ho assolutamente idea di che cosa altro sarebbe interessante, perché è proprio una cosa che non. E l'altra cosa che mi è venuta in mente ascoltando è che sì, sono assolutamente d'accordo che la gestione dei dati dal basso e il controllo dei dati dal basso possono fornire agli algoritmi diciamo, materiale migliore. Okay? Ma il punto fondamentale, secondo me, cioè l'altro punto fondamentale di questo processo, è che comunque l'algoritmo, se è viziato da un'opinione, con una, un'opinione vestita, scritta nei dati, in realtà manca quello, manca una gestione dal basso dell'algoritmo, non solo di quello che lui mangia e sputa, anche perché se algoritmi che erano solo codici si stanno trasformando in AI, e se sono viziate, o sono razziste, o sono sessiste, noi possiamo vedere soltanto il risultato, ma non, diciamo, e su questo io pure mi domando se non sia il caso di fare le nostre. Allora, ti rispondo partendo dalla seconda. In realtà in tutta questa presentazione manca una parte, che è quella che riguarda l'intelligenza artificiale. Io poi, dopo aver studiato comunicazione, in realtà ho fatto un dottorato in neuroscienze cognitive e adesso mi occupo di neuroetica nella vita, e non solo di data ethics. E quindi mi occupo esattamente di questo, cioè di far capire un sistema di intelligenza artificiale come far apprendere sistemi di intelligenza artificiale e anche un sistema di valori, in modo tale che quando ragiona sia ragioni in maniera, non dico neutrale, ma non condizionato da una sola opinione, si ponga si faccia delle domande e chieda il supporto, sia collaborativo rispetto all'elemento umano. Adesso ve l'ho spiegata malissimo, però è per farvi capire, non sapendo bene che tipo di background abbiate, come si può interagire con il sistema di intelligenza artificiale e con gli algoritmi. Cosa stanno facendo le città più illuminate riguardo a questo? Stanno in realtà chiedendo intanto il rilascio di una parte dei dati alle piattaforme, cioè negli accordi per agire all'interno di uno spazio urbano, chiedono la restituzione in termini di dati, di bene comune, di una parte dei dati che loro estraggono dai cittadini, ma in più stanno imponendo il rilascio degli API a molte delle piattaforme in un repository che è accessibile all'istituzione, quindi per fare il passaggio indietro in modo tale da capire se per esempio alcune zone vengono discriminate perché non interessanti dal punto di vista economico da Uber rispetto alla parte che compensa la mancanza di trasporto pubblico urbano, perché le persone non sono disposte a trattare Uber con i prezzi con cui li tratterebbero in una zona più ricca, oppure Mobike come player che mette a disposizione le biciclette, perché il tasso di vandalismo rispetto a quelle biciclette in una determinata zona della città è più alto e quindi l'algoritmo di Mobike non le mette in quella zona. Ecco, attraverso il rilascio delle API si può fare del reverse engineering rispetto a come prende le decisioni l'algoritmo, ed è per questo che appunto città come New York obbligano i player a rilasciare gli API all'interno di questo repository. In Italia non c'è nessuno che lo sta facendo. Riguardo la città femminista come una città più illuminata, se vogliamo rimanere a livello della metafora va benissimo, se invece diventa soltanto lampioni intelligenti che permettono a una donna per esempio di azionare in una strada buia i lampioni perché vuole camminare sicura, va mediamente bene, però dobbiamo intenderlo in realtà come proprio un redesign, se volete, della città e degli spazi. A Barcellona sempre, è un esempio che conosco bene, ma perché la calpesto, quindi in realtà stanno facendo questo lavoro non solo con le donne, cercando di capire quali sono proprio anche attraverso i dati, i flussi, i trasporti pubblici presi dalle donne, come rendere la loro vita più facile. Per esempio, le persone che si devono prendere cura degli anziani, un maggior numero di autobus col pedalino basso, per cui spingere la carrozzella è più semplice, oppure percorsi più diretti con meno cambi per andare da un posto all'altro negli itinerari fatti dalle donne più anziane, per esempio. Oppure accortezze di questo tipo, ma lo stanno facendo anche con i bambini, per esempio. Quindi adesso hanno fatto delle super IES, che sono delle zone, hanno chiuso delle strade di un quartiere, e al centro, dove c'erano gli incroci delle strade, in questo sistema di coprogettazione degli spazi con le assemblee popolari di Barcellona hanno messo dei parchi gioco con campo da calcio, con un piccolo orto urbano e le macchine invece devono parcheggiare fuori e a distanza. Tra l'altro le macchine devono andare anche molto lentamente perché hanno progettato le strade attorno alle Super IAS in modo tale che le macchine non possono superare i 30 km orari nel momento in cui passano, disincentivando al massimo l'uso dell'automobile privata all'interno dello spazio urbano. Questo lo puoi fare se contemporaneamente ovviamente aumenti il trasporto pubblico o le possibilità per i commuters di lasciare la macchina fuori dalla zona urbana di Barcellona e poi spostarsi con sistemi integrati in metropolitana e bicicletta a noleggio, quindi il bicing. Quindi sì, si può fare, ci sono tantissimi esperimenti anche in Italia di veri o presunte coprogettazioni del redesign della città. Ci sono alcuni pilota, anche Bologna lo sta provando a fare con successo medio. Però sì, ridisegnare una città per le donne non significa mando un questionario e ti chiedo qual è il tuo problema principale in cima all'agenda, ti coinvolgo nel processo, ti ascolto, ti osservo, controllo i dati, verifico se quello che tu mi stai dicendo mi permette di leggere i dati che ho su di te, su te come categoria di persona in maniera corretta, ti propongo una soluzione, la sperimento con te, ti chiedo di valutarla e poi la metto a sistema. È un processo lungo, è un processo difficilissimo, è un processo che sicuramente, per esempio, non fa aumentare il valore immobiliare nel modo in cui piace al mercato, quindi crea e determina anche, secondo me, spazi di conflitto forte all'interno dello spazio urbano. Però secondo me è un processo assolutamente necessario, oltre che possibile. Quindi è un tipo di discorso che inizierei a fare anche nel piccolo, qui per esempio. Ho notato che dove stiamo noi con l'appartamento, per esempio una strada è senza marciapiede, che quella è una banalità. Però se tu chiedi a un bambino di cosa c'è bisogno in una città, lui ti dice io ho bisogno dei marciapiedi, non ho la macchina, molto spesso non ho la bici, i bambini se vogliono fruire della città anche autonomamente hanno bisogno dei marciapiedi, banale, sì se volete banale, ma contate quante strade e quanti bambini per esempio possono spostarsi con minori gradi di libertà perché non vivono in una zona di Senigallia con un marciapiede o un marciapiede sicuro, quanti bambini non possono andare in bicicletta o anziani non possono andare in bicicletta e spostarsi in bicicletta, quindi vivono isolati e non fruiscono della città perché non ci sono piste ciclabili in sede protetta. E quindi, per esempio, o condividono il marciapiede con i pedoni oppure restano appunto chiusi in casa. Considerate quante donne, ecco, una città per esempio delle donne, ammesso e non concesso che sia giusto che le donne debbano provvedere all'acquisto dei generi alimentari, è una città in cui esiste per esempio un presidio con un minimo di prodotti alimentari a meno di 200 metri, credo, e in un raggio di 200 metri dall'abitazione, 200-250 metri dall'abitazione, quindi un posto dove fare banalmente la spesa, dove prendere le cose banali. Allora, io posso essere d'accordo che non è giusto che lo faccia soltanto la donna, però se vuoi aiutare le donne, per esempio, a non dover prendere la macchina ogni volta per andare a fare la spesa, questo è un altro elemento, un piccolo supermercato di quartiere, una piccola bottega di quartiere in cui trovare tutti i generi alimentari, per esempio è una buona, e nel momento in cui distribuisci le licenze è una buona idea. Lo so che va contro al mercato perché conviene mettere la propria bottega dove c'è sicurezza del fatto di avere la clientela, quindi sono altre le dinamiche con cui si decide dove mettere la bottega, non sicuramente renderla un servizio pubblico perché è un'attività commerciale privata. Però se tu sei un amministratore, stai creando una città inclusiva in cui tutte le persone godono degli stessi diritti, a queste cose devi prestare attenzione e puoi avere dei correttivi nelle tue politiche di distribuzione delle licenze per superare anche questo. Non faccio politica. Esatto, ho ucciso la conversazione. Volete il DJ set, vero? Se non ci sono altre domande, se non ci sono altre domande, in ogni caso penso che ci fermeremo qui ancora un po', quindi siamo qui, possiamo chiacchierare insieme. Siamo arrivati quasi alla fine. Io ringrazio di nuovo tutte. Sì, certo. No, perché in realtà stavo elaborando, però sta chiudendo la serata, quindi non ho elaborato, per cui sparpuglierò delle cose, mi avrai compassione di questo. No, nel senso che ho ascoltato il discorso e c'è un qualcosa che appunto stavo riflettendo, quindi ancora non so se sono in grado di esprimerlo in termini compiuti e comprensibili, ecco, e anche razionali, perché appunto stavo pensando se le cose che pensavo avessero o meno un senso. E quindi però ecco, non avendo avuto tempo di concludere il pensiero, faccio un pensiero a voce alta e vediamo quello che esce fuori. E il pensiero è questo, no? Tu poni, se ho capito bene ovviamente, diciamo il pensiero femminista, la prospettiva femminista, come una prospettiva con la quale possiamo afferrare il diritto alla città, in quanto il pensiero femminista si fonda su un pensiero della differenza e quindi, come dire, valorizza le differenze che vivono nella città a prescindere dall'essere donna. Hai parlato bambini, ho visto simboli della disabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una città femminista, se ho capito bene, metaforicamente, fondamentalmente non è una città costruita per la donna, ma è una città costruita, esatto, per armonizzare e far convivere le differenze, insomma. Non mi torna questa idea, però sarà perché sono un uomo, che il maschio bianco quarantenne sia l'incarnazione del male in senso assoluto, però vabbè, lasciamola da parte questa cosa. Quello che mi chiedo è questo, che è più che altro un riferimento al collegamento rispetto alle altre serate che abbiamo svolto, no? Perché c'è quasi un elemento di contrasto tra l'idea di Smart City che abbiamo discusso ieri sera e l'idea di Smart City che viene proposta adesso. E questo contrasto, se ben ho capito, mi sembra che si dia non nella messa in discussione della Smart City, ecco, ma nel capire come la dimensione smart possa essere utilizzata e rispetto a che cosa. Per cui la dimensione smart non si mette in discussione, ma si discute su come lo strumento si indirizza, eccetera. E io in questo senso sono d'accordo, perché ritengo la dimensione smart qualcosa di inevitabile, cioè un destino, cioè non penso che se anche uno non fosse d'accordo, però non sta nelle corde del reale poter sovvertire o impedire questa dimensione, a meno che uno non immagini di ritirarsi in qualche splendida comunità, come dire, privata. Questa ineluttabilità però non ci pone un problema? Cioè, e questa è un po' la domanda che, sulla quale ragionavo, e quindi a questo punto la socializzo, noi possiamo usare uno strumento capitalistico in senso positivo o in senso negativo, ma non possiamo permetterci di non pensare di non usare uno strumento capitalistico. Cioè, nel senso, io posso usare una piattaforma che invece che rendermi, non so, produrre dei servizi, me ne producono altri che ovviamente per me sono più piacevoli. Ma io non esco dalla dimensione dell'espropriazione di valore, dell'appropriazione di dati, vita, relazioni, eccetera, che la piattaforma del capitale esercita su di me. È, come dire, una visione sicuramente più dolce, riformista, e non è una critica, sia chiaro, perché è meglio di niente. Però quello che io non riesco a cogliere è, come dire, permettimi la banalizzazione, però la dimensione anticapitalista di questo elemento, ok? Cioè, perché mi sembra che quello che si pone è le città le dobbiamo far diventare aziende, e questo è indiscutibile. Poi capiamo che tipo di azienda, ecco, magari diamo invece che fare le armi, facciamo penne per una scuola, quindi un'azienda buona rispetto a un'azienda cattiva. ma il meccanismo, potremmo dire, i diritti del lavoratore, i meccanismi salariali, l'orario, cioè, però tutte queste cose non le discutiamo di fatto. Quindi ecco, ragionavo un po' su questo elemento, ecco, che mi resta ecco, confuso fondamentalmente, non so dire se sono d'accordo o non sono d'accordo, la penso in una maniera o la penso in un'altra. È come se ci fossero due facce della stessa medaglia. La medaglia e la medaglia che cosa dice? Estrarre valore per profitto. Poi se il profitto è di una cosa o di un'altra, chi se ne frega, tanto il capitalismo non ha valori, quindi non ha nessun problema, si adatta su qualsiasi piano. E, ecco, mi chiedo se ci possa essere, ho capito male innanzitutto, o se ci possa essere, come dire, una modalità di gestione dello strumento tecnologico in qualche maniera anticapitalista, ecco, questa è un po' è la domanda. Poi magari non ho capito un cavolo, perché sono un pagano degli argomenti. No, hai tirato fuori un grosso problema che, ti dico, io ho, sto cercando di restituire il microfono, che io ho sottolineato, allora, premessa 1, non ce l'ho, vai. Abbiamo talmente tanti dati che non abbiamo bisogno di una polizia, però attenzione, la polizia non è il punto dal punto di vista originale, la polizia è risultata, la prima forma di polizia è l'Europa e la Cina. Esatto. È completamente un'altra cosa. Noi quando parliamo di polizia pensiamo al Vietnam, questo è completamente un'altra cosa. Quindi è anche interessante come il meccanismo, l'alterità della sicurezza, l'alterità di una sicurezza diversa, assolutamente comprensibile, però non è anche il meccanismo della sicurezza. Allora, parto dalla prima considerazione. Io assolutamente non ce l'ho col maschio bianco quarantenne. No, giuro, non ce l'ho. E infatti, quando preparavo questo talk, ne parlavo con il mio compagno, maschio bianco quarantenne, che mi ha detto: forse dovresti iniziare a premettere che tu non sei arrivata a questa attività di ricerca passando dal femminismo. Ma ci sei arrivata passando invece dal discorso sugli open data e la parte più tecnologica, delle politiche tecnologiche. Infatti il femminismo è probabilmente la parte di cui parlo meno, la parte teorica di cui parlo meno, perché non lo conosco e mi ha sempre tenuta a distanza, proprio perché in qualche modo non ne trovavo un'applicazione che non discriminasse o che non aggredisse, che non rifiutasse, fino a quando non sono entrata in contatto con questa visione molto pratica e molto poco teorica del femminismo realizzata a Barcellona. E quando parlo del femminismo mi riferisco proprio a loro, del data feminism, che è, se vuoi, sì, probabilmente accetta criticamente una visione riformatrice del capitalismo. Non è anticapitalista, probabilmente non è nemmeno il data feminism, probabilmente un femminismo di sinistra, se proprio volessimo generalizzare, ma è un femminismo che in qualche modo seleziona gli elementi del femminismo che possono raccogliere consensi in almeno un 50% della popolazione mondiale. Quindi è quasi una versione populista del femminismo, non so in che altro modo portela. Quindi sì, non sono entrata nel merito di questo, però la tua domanda mi permette di fare questa precisazione. Riguardo alla visione anticapitalista, che invece politicamente magari mi appartiene di più, ma come ricercatrice faccio fatica a trovare sia in una versione di elaborazione teorica avanzata, ma anche di pratiche che seguono questo pensiero avanzato, Ecco, devo dirti che la mia speranza è che partendo dal piccolo generi quella sufficiente massa critica per poi operare su scala maggiore. L'esperienza di Barcellona me lo fa sperare, in qualche modo, nel senso che dal 2015 a oggi sono cambiate tantissime cose, in un tempo che è il tempo accelerato che la tecnologia ci dà per le grandi trasformazioni. Quindi sì, è vero che non ci sarà la rivoluzione, ecco, nel giro di 10 anni, però che in qualche modo ci si liberi di qualche vincolo o di qualche limitazione e si recuperi un po' il senso del diritto digitale alla città o del diritto alla città, ecco, almeno quello sì. Diciamo che è un lavoro che facciamo sulla cultura politica, sul piano della cultura politica in questo momento, ed è già un qualcosa, non sufficiente, ma è qualcosa. Per quanto riguarda la polizia, devo aggiungere una cosa di cui parlavamo ieri sera, perché anch'io sono rimasta colpita da quell'affermazione, anche perché in realtà leggevo l'altro giorno che diversi stati, la polizia di diversi stati sta acquistando i dati, c'è cioè un tariffario dei dati, delle conversazioni nelle disponibilità della polizia, che se vuole per le indagini accedere ai dati delle conversazioni su Facebook può acquistare dai grandi player questi dati. E uno dei grossi problemi che abbiamo in questo momento, di cui non si è discusso in questa rassegna, ma spero sia un tema di cui si parlerà prossimamente, è il tema dei diritti e dei doveri degli algoritmi. Gli algoritmi non hanno personalità giuridica e quindi, come non ce l'hanno i sistemi di intelligenza artificiale o i sistemi di machine learning, non ce l'hanno le reti neurali, non ce l'hanno i robot. Quindi non possono essere in qualche modo, non sono sottoposte alle nostre leggi. E quindi questo è uno dei grossi problemi, perché se l'elaborazione di un algoritmo determina qualcosa che è un reato, in realtà non si può colpire nessuno. E quindi, per tornare alla domanda sulla polizia, sugli algoritmi, sul sistema di polizia, abbiamo un sistema di polizia che non risponde a nessuna legge, perché non c'è alle spalle nessuna responsabilità individuale e nessuna persona giuridica dietro quell'algoritmo. Quindi sì, se un algoritmo dovesse torturarci virtualmente nel suo spazio di manovra, e non solo in Italia dove non c'è reato di tortura, ma in tutto il resto del mondo, non potrebbe essere colpevolizzato, paradossalmente. Non so se c'è questo tra i racconti distopici che avete. Non lo so, non avendo un libro, ma ha letto Federico, non io, quindi non lo so. Secondo me, insomma, è abbastanza inquietante. No, io provo ad aggiungere qualcosa, ma ovviamente cercando di elaborare, perché i pensieri, è giusto, credo che siano confusi quando... insomma, anche per me ci sono tanti elementi di novità e ne sono emersi moltissimi in questi giorni. Si può fare un uso della tecnologia al di fuori del capitalismo? Così molto rapidamente direi sì, cioè credo di sì, e credo che sia importante cominciare a recuperare una dimensione in cui pensiamo le tecnologie fuori dalla dimensione dei rapporti economici capitalistici. Dopotutto il comunismo sono i soviet più l'elettricità, diceva uno molto più con una mente politica molto più avanzata della mia. E io credo che forse questa è la grande difficoltà che facciamo probabilmente adesso, cioè a immaginarci non solo il mondo, ma le cose del mondo al di fuori di quei rapporti. Io ho iniziato a leggere Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff in questi giorni, e l'ho detto già diverse volte in queste serate, nelle prime 100-120 pagine lei è davvero efficace nel mostrare come diciamo, la politica estrattiva che le piattaforme hanno messo in piedi, o meglio le tecniche estrattive che le piattaforme hanno messo in piedi, hanno una data di inizio, cioè iniziano a un certo punto. Prima le piattaforme esistono, Google esiste e cerca di capire come può restare sul mercato, restare viva, fare profitti, perché fino a un certo momento della sua storia è una startup come mille altre, e soprattutto è una startup che viene creata pochi mesi prima dell'esplosione della bolla delle dot-com, quindi quelli che l'hanno finanziata a un certo punto cominciano a domandarsi: ma abbiamo veramente messo i nostri soldi, li stiamo spendendo bene, li abbiamo investiti bene, o anche questa fallisce come stanno fallendo tutte quante le aziende di questo tipo qui? E a un certo punto scoprono scoprono appunto il filone aureo e cominciano a sfruttarlo, che è quello appunto della produzione, raccolta, analisi e messa a valore dei dati, perché questo è il ciclo legato alla gestione del dato. Però giusto per fare un esempio, se noi torniamo agli anni 60 e parliamo del Cile di Allende, Allende è il presidente che sostanzialmente dà mandato a un informatico, ora purtroppo mi sfugge il nome, ma di creare un sistema di pianificazione economica per il Cile socialista, si chiamava CyberSyn. Il golpe di Pinochet mette a pietra tombale su quel progetto lì, però quello è un modo, o meglio, era una prospettiva, un progetto, un'idea di usare i dati, l'elaborazione, la computazione in una chiave non capitalista. Poi possiamo discutere se il governo dell'Allende fosse riformista, veramente anticapitalista, eccetera. Però mi interessava sottolineare come quello è un esempio, e ce li dobbiamo ricordare probabilmente questi esempi. L'Unione Sovietica, apriamo, chiudiamo la parentesi, luci e ombre, forse più ombre che luci, ma anche in Unione Sovietica si facevano questi esperimenti di pianificazione dell'economia attraverso l'utilizzo dei dati, dei computer, della computazione. Quindi gli esempi li abbiamo nella storia recente dell'utilizzo dei dati, dell'informatica, eccetera. Forse li dobbiamo recuperare, rielaborare, anche per aprirci delle visioni e fare un attimo entrare aria in una stanza che effettivamente è soffocante. Quanto, insomma, l'adagio, il virgolettato di Dio, per riprendere una cosa che si diceva oggi pomeriggio, per cui è più difficile, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, dovremmo prenderlo seriamente, perché a un certo punto dobbiamo cominciare a immaginarci come poter far finire il capitalismo. Per cui secondo me sì, cioè c'è una possibilità di usare i dati al di fuori di questo tipo di rapporti economici, di rapporti di produzione. Poi chi ha una visione più pragmatica giustamente si pone il problema di come li uso nell'immediato per migliorare delle condizioni di vita proprio materiali, oggettive, che oggi non sono sopportabili, non sono sostenibili, non sono nemmeno, e da un punto di vista etico, sostenibili. Ecco, credo che così possiamo provare a elaborare la questione all'interno di questi confini, all'interno di queste due posizioni. Mi spiace solo che non intervengano le donne, questo è il mio grande rammarico. Noi ci siamo conosciuti in un panel in cui in realtà io lamentavo di essere sempre l'unica donna che parla nei panel tecnologici e di sentirmi molto sola nel mio genere. Però capisco la timidezza, però io resto qui, quindi se volete fare delle chiacchiere, fare delle domande. Io volevo fare sì. Una domanda, più che altro collegarmi a una cosa a cui hai solo accennato, premetto che io sono qui solo oggi, quindi non ho seguito gli altri incontri, però forse anche perché diciamo di lavoro faccio l'informatico, però c'ho una formazione filosofica, quindi queste cose mi interessano molto e mi faccio tante domande. Tu prima hai parlato, partendo dal fatto che hai un background di tipo psicologia comportamentale, eccetera, quando hai accennato a il problema fondamentale di come dire a un algoritmo, ma nello specifico a un algoritmo che lavora con i big data, no? Quindi un pool di dati talmente ampio da sembrare quasi tutti i dati, come diceva, non mi ricordo chi in questo momento, quindi non posso fare la citazione, tutti i dati nel senso, ecco, questo tutti i dati, no? Talmente tanti dati che sono tutti dati riguardo un argomento. È una cosa che da quando l'ho letta mi ha sempre creato un problema, perché dico, se a un certo punto noi diamo per scontato di avere tutti i dati solo perché sono tantissimi, e uno c'è un problema, cioè questi dati come sono stati raccolti in prima analisi, in base a quali principi etici, quindi non tecnici, e quando ci possiamo accorgere della necessità di doverli raccogliere in un modo diverso. Per esempio, tu parti da una prospettiva femminista e inclusiva rispetto alle diversità, quindi nel senso, diciamo, più ampio e più giusto, secondo me. E, come si fa, domanda uno, a insegnare a un'intelligenza artificiale l'etica, perché è quello poi il problema, no? Cioè, come si fa a insegnare a un tecnico l'etica, perché poi è il tecnico che deve parlare con la macchina. E io, per esempio, insomma, facendolo di lavoro, vedo che è un mondo molto lontano da tutte queste problematiche, molto lontano dalla comprensione di queste problematiche. Come si fa a educare i tecnici a questa serie di problemi? Come si fa a tradurle in codice? Cioè, forse sto facendo troppe domande, però mi interessa soprattutto in base al tuo background, se ci puoi dire qualcosa, anche magari nello specifico, magari è noioso questo. Un altro talk che ti consiglio di immaginare. No, è un tema in realtà che è molto carino e anche divertente, anche per chi non si occupa necessariamente di informatica e intelligenza artificiale. I sistemi di intelligenza artificiale, come il nostro cervello, lavorano con garbage in, garbage out. Cioè, a un certo punto non possono elaborare tutti i dati, e come il nostro cervello hanno dei limiti di calcolo e di potenza di calcolo, quindi dobbiamo scegliere su quali dati lavorare. In questo senso anche l'algoritmo è un'opinione scritta in codice, perché su cosa lavorare è una scelta abbastanza arbitraria, cioè si lavora su quei dati che rispetto al processo che è stato immaginato e descritto dall'algoritmo, quindi disegnato con l'algoritmo, sono dati immediatamente utili, sono buoni, sono stabili se arrivano da un flusso che deve essere mantenuto, e ti permettono di avere un output che rientra nel margine di errore che ti sei dato come consentito. Quindi questo è il tema. Quindi il tema del garbage in, garbage out è molto molto interessante, perché cosa tengo di tutto quello che c'è, e c'è sempre di più perché ogni giorno noi lasciamo nuove tracce digitali, e cosa invece lascio perché non mi serve adesso e non mi servirà in futuro, quindi non devo sapere nemmeno come recuperarlo, che è l'altro grande tema. E dal punto di vista informatico, dal punto di vista umano, non si risolve, questo ve lo dico da neuroscienziata, non si risolve, cioè nel senso che purtroppo per fortuna il nostro cervello è fatto per dimenticare più che per ricordare, perché se si dovesse ricordare tutto, ricorda prima di tutto quello che diventa un'automatizzazione, poi se si dovesse ricordare tutto, in realtà noi non riusciremmo a muoverci, perché dovrebbe ogni volta inventarsi un processo per scegliere l'informazione rilevante. Riusciremmo nemmeno a respirare, se per esempio la respirazione non fosse un sistema controllato in maniera automatica o semiautomatica. Un processo o un movimento controllato in maniera semiautomatica. I sistemi di intelligenza artificiale risolvono questo problema attraverso i computer quantici, che non hanno gli stessi limiti che hanno i sistemi di calcolo basati invece sul calcolo lineare, però qui mi sto andando un po' nel dettaglio, per cui possono permettersi non di tenere tutto, ma di avere un piccolissimo garbage out rispetto al precedente, e quindi di sperimentare parallelamente più processi invece che doverlo fare in maniera sequenziale, per esempio, e soprattutto fare eliminare come garbage out proprio solo quello che proprio non serve, quindi gli spazi bianchi, non so come dirvi in un'altra immagine che sia comprensibile per tutti. Quindi questa è una parte della risposta. Come si insegna etica? In realtà io non, cioè purtroppo si chiama etica il mio corso e quindi mi trovo a insegnare etica e neuroetica. Ma quello che faccio con gli studenti, io lavoro praticamente solo con studenti internazionali, non lavoro quasi mai con studenti italiani all'università, è di discutere sui sistemi di valori. Anche perché mi trovo con studenti libanesi, studenti cinesi, studenti statunitensi, studenti brasiliani, e vi assicuro che già discutere del sistema di valori è un modo per far prendere loro coscienza intanto della dimensione culturale che differenzia, in qualche modo clusterizza questi valori, ma anche di come i valori siano fondamentalmente individuali. Quindi insegnare etica è oggettivamente impossibile anche quando hai a che fare con gli umani. Posso provare a insegnare un po' di deontologia professionale, e soprattutto io mi spero di insegnare ad avere un approccio critico rispetto all'intervento che viene immaginato sempre solo come tecnico, sia quando fanno i giornalisti, poi si apprestano a diventare giornalisti, quando si apprestano a diventare designer o quando si apprestano a lavorare in una qualsiasi professione che immaginiamo come soltanto tecnica. Non esistono lavori solamente tecnici. E quindi questo mi viene un po' più facile farlo quando tra i 10 lavori che faccio insegno, per esempio, nelle scuole medie delle regioni delle zone interne dell'Emilia Romagna, insegno finanza etica e criptovalute ai bambini delle medie, è molto divertente, che è un modo in realtà per parlare di tecnologia, di virtuale, reale, denaro, valori, potere d'acquisto, politica, e i bambini, sono i ragazzini delle medie, sono incredibilmente responsivi rispetto a questi temi, e capiscono subito che effettivamente qualsiasi cosa fanno è terribile, perché poi non riescono più a stare in classe con i loro insegnanti dopo che sono passata io, perché fanno un sacco di domande. Però è molto interessante, perché ti rendi conto che comunque l'intuizione e l'approccio critico in quell'età ce l'hanno, sono più eventualmente i professionisti o gli studenti universitari, quando li incontro, che si sono un po' più rilassati e un po' più rassegnati in questo senso. Quindi per me insegnare etica in realtà non è altro che fare domande a loro e sperare che escano da la stanza in cui sono entrata con molte altre domande da fare a se stessi in ogni momento, e che le risposte non rientrino nel garbage out non appena sono uscita dalla loro classe. Si può insegnare deontologia professionale comunque ai professionisti, e già questo è assolutamente utile. Ho ucciso di nuovo. Va bene. No, vabbè, sono anche le 11 di un sabato sera, comprendiamo. No, grazie, io non l'avrei mai fatto. No, allora, se non ci sono altre domande, io faccio la chiusura definitiva questa volta, quindi pensateci bene, ci potete pensare ancora. Ultima chiave. No, scherzo. Ah, ok, era lo scherzo. Va bene, allora io chiudo ringraziando di nuovo tutte le persone che sono passate di qui in questi 3 giorni. Sei molto femminista. Provo. Grazie a Dar Vultura che ci ha dato la possibilità di essere qui. Ricordo ancora che la selezione di libri a tema è disponibile al 10% di sconto se la comprate e la pagate al bar questa sera, solo esclusivamente per questa sera. Questo è il mio io piazzista, l'avete imparato a conoscere, e poi lo salutate. Ok, non so cosa sia la fiera di Sant'Agostino, ma già mi piace, detta così mi piace. Io vi lascio al set di Iridescent e Hybrid con Abstract Noise alla parte visiva, ve lo anticipo, non vi faranno sconti, cioè proprio stasera loro no, loro 10% di sconto non lo fanno, e quindi la postura giusta per goderli è aprirsi, ascoltare, essere curiosi e provare a entrare in quella che sarà la loro proposta musicale di questa sera. Io ringrazio tutti i partner di Bridge, li cito: la libreria Colonna 130 di Fano, la libreria Sabò di Iesi, il progetto collettivo Bitnet 01, grazie ancora, e speriamo di rivederci nel futuro.